Tu canale 12, tu canale 12. Ora attenzione canale 12, c'è qualcuno? Attenzione 10, CQ canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno? Attento canale 10, c'è qualcuno? Thank you. Ora. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora.